4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta, buonasera, bentornati amici dei motori, il programma che da ormai 10 anni vi tiene compagnia parlando di motori, quasi 10 anni, siamo nel corso del decimo anno. www.radio24.it e poi 4ruote@radio24.it, sempre attivi per raggiungere la nostra redazione. Abbiamo un parterre di ospiti e soprattutto di contenuti davvero interessanti. Pensate che la prova di questa sera si concentrerà su una top car di fatto. Così l'abbiamo intitolata, la Nissan GT-R, che sta facendo impazzire tutti gli appassionati delle prestazioni, nonostante appartenga ad un brand che di sportivo ha a tutti gli effetti un solo modello, questo, ma ne sentirete delle belle, si parla di quasi 500 cavalli per intenderci. Poi la Husqvarna, il mitico brand di moto fuoristrada, tra l'altro impersonato dal leggendario Steve McQueen nel film, nei video, ripreso da poco da Robbie Williams. Insomma, un marchio storico, è stato acquistato dal gruppo BMW ed è stato l'altro giorno, 3 giorni fa, inaugurato l'headquarter qui in Italia, per cui ne parleremo sia con Husqvarna che con 2 ruote. Chiuderemo poi con la spedizione Bike Lili, ci sono una decina di pazzi che prendono la bicicletta e vanno in Madagascar, ma lo fanno per far del bene ai bambini, e sentiremo tutti gli aspetti tecnici di questo viaggio. E poi il Pocket Pass, una specie di porta telepass, un accessorio intelligente che serve non solo a riparare il telepass ma anche a filtrare le onde che passano, in modo tale da schermare il telepass passando sotto la porta nel caso non si voglia far pagare il pedaggio a quel telepass, nel caso se ne abbia 2. Succede a molti lavoratori, soprattutto a coloro che passano molte ore in macchina. Buona serata da Alessandro Carcano di 4 ruote. Ciao Alessandro. Buonasera Roberto, una buona serata a tutti gli ascoltatori. Grande privilegio per te questa sera, Alessandro, perché il Nissan GT-R non è un'auto qualunque. Ebbene sì, è comunque un sogno un po' di tutti, anche perché è un sogno un po' più accessibile di tante supercar che ci sono in giro, perché comunque il prezzo è veramente concorrenziale. Molto bene, siamo pronti allora ad ascoltare insieme la scheda, la solita scheda introduttiva che però ci fa capire le cose base, cioè le principali caratteristiche della Nissan GT-R. Sembrava difficile stravolgere certe regole nel mondo delle supercar, ma con l'arrivo della Nissan GT-R qualcosa è cambiato. La giapponese, infatti, è una gran turismo estrema, che offre tanto a molto meno delle più blasonate concorrenti. Con il suo motore biturbo da 480 cavalli, sfodera prestazioni davvero eccellenti, e grazie alla trazione integrale e all'elettronica ha una stabilità da riferimento. Nome: GT-R 3008 V6 Premium. Carrozzeria: coupé 2 porte a 4 posti. Dimensioni: lunghezza 4,66 m, larghezza 1,90 m. Peso: 1.665 kg. Motore: anteriore e longitudinale 6 cilindri a V. Potenza: 480 cavalli. Trasmissione: trazione integrale, cambio automatico a 6 marce. Prezzo: 84.351 euro. Ce n'è davvero da non dormire la notte con tutte queste caratteristiche, gli amanti dei motori, ma immagino anche qualche curioso che si stia chiedendo: ma scusate, parlate davvero di una Nissan? Ebbene sì, la GT-R. In realtà esisteva già, la Nissan GT-R ha già fatto sognare generazioni di appassionati, Ale. Esatto, è un po' che c'è quest'auto, diciamo che ha subito fatto entusiasmare i più appassionati di velocità e di adrenalina, proprio perché, come si è sentito anche dalla scheda, offre veramente tanto, sia a livello di prestazioni sia a livello di stabilità, a un prezzo veramente accessibile, certo ai ricchi, però molto più accessibile rispetto a tante concorrenti più blasonate, perché 84.000 euro, se si pensa che una Carrera Turbo che ha gli stessi cavalli e prestazioni simili ne costa 143.000, si capisce che comunque uno, se ha desiderio di acquistare una supercar, può benissimo tranquillamente acquistare una GT-R e non rimanere deluso. Decisamente, siamo quasi alla metà, poco più della metà dell'investimento iniziale. Certo, qualcuno dirà: brand diversi, auto diverse per la sportività, ma le prestazioni, ragazzi, sono prestazioni, a tal punto che hanno portato, se non sbaglio, proprio recentemente questa vettura a stabilire un record importante in Germania. Sì, sul Nürburgring è riuscito veramente a fare questo record per auto di queste categorie, e andando sicuramente a mettere in crisi un po' appunto questi marchi più blasonati, come può essere la Porsche, ma anche certo, la stessa Lamborghini, che avendo più cavalli offre una velocità di punta leggermente superiore a 325 contro 310, ma uno 0 a 100 praticamente identico, 3,8 secondi per la GTR e 3,7 per la Gagliardo. Certamente, poi anche la GTR non pesa affatto tanto, anzi fa del peso una delle sue armi forti. Con i 480 cavalli pesa 1665 kg, lo avete sentito dalla scheda, e come sempre vi riporto il rapporto peso-potenza: siamo a 3,47 kg spinti da ogni cavallo. Pensate, ogni cavallo spinge meno di 4 kg, siamo davvero all'altezza delle grandi, e infatti le prestazioni lo dimostrano. Detto questo, in cui l'abbiamo inquadrata, Alessandro, ti chiedo, ma i numeri per l'Italia sono pochi, saranno pochissimi, chi si compra la Nissan GTR secondo te? Ma sicuramente chi vuole provare emozioni e comunque può anche aver bisogno di un'auto per girare tutti i giorni senza svenarsi, indubbiamente, perché se guardiamo il comfort, per esempio, il sedile di guida, il posto di guida per il passeggero è veramente comunque comodo, avvolgente, sportivo, certo, ma è così anche sulle altre sportive. I posti dietro sono praticamente di fortuna, buoni per bambini e bagagli e per contorsionirsi, per salire, certo, e scendere. Certo, ecco. Però guarda che questa cosa non è da dimenticare, perché va anche a rispondere a una serie di esigenze. Per esempio, un ascoltatore, Dario, ci ha scritto proprio la settimana scorsa richiedendo questa prova, e lo abbiamo esaudito al volo, dicendo che secondo lui, è il suo parere ovviamente, la Nissan GTR ha più armi a suo vantaggio rispetto alle altre, non solo come prestazioni, prezzi eccetera, ma anche perché lui dice è molto più vivibile. Se giro in Ferrari o in Lamborghini tutti si girano a guardare chi sono e ho paura talvolta a girare, con una Nissan nessuno quasi mi considera. Vero fino a un certo punto, perché è un'auto che si fa notare molto. Sì, comunque il design con queste linee spigoli vivi, forme imponenti, gli scarichi enormi, quattro gruppi di due dietro, sono comunque vistosi, però sicuramente passa più inosservata rispetto a una Ferrari, a una Lamborghini, che hanno comunque un sound ancora più pieno, ancora più forte, sono auto prettamente, certo, sportive. Ecco, a questo ciascuno sembra più un'auto per andare anche al lavoro tutti i giorni, ecco, tranquillamente. A ciascuno la sua auto, dunque, dobbiamo dare i voti a questa Nissan GTR e poi ci salutiamo con la pagella. Posto di guida, azzeccato. Seduta adeguata, buon supporto lombare e numerose possibilità di regolazione. 4,5 stelle. Interni. Alcuni dettagli e materiali sono senz'altro migliorabili. Di serie comunque offre materiale pregiato, navigatore, sedili ipersportivi e audio top. Manca forse lo sfizio. 4 stelle. Comfort. Non sarà all'altezza di altre top car, ma non è scomoda in assoluto. E poi con una meccanica così, 2,5 stelle. Su strada, coinvolgente, alla portata, è sana la GTR. Vigila bene l'elettronica senza disturbare troppo la guida. 5 stelle. Consumi. Di norma si fanno i 4 con un litro. In economy run non più di 6. Autonomia appena sufficiente con 74 litri di serbatoio. 2 stelle. Alessandro Carcano, 30 secondi finali per dire quindi e riassumere due pregi e due difetti. Guarda, allora, per i pregi direi sicuramente la stabilità, perché l'elettronica non è mai invasiva e la rende quasi facile, sì, alla guida, più c'è la trazione integrale sicuramente, e poi direi che il motore sicuramente è un più, perché con i suoi 480 cavalli regala veramente prestazioni entusiasmanti. Bene. Per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti così, se vogliamo, negativi, anche se appunto si sta parlando di autosportiva, ci sono questi 4 km al litro che ti costringono un po' a guardare la mappa dei distributori prima di mettersi in viaggio, e un pochettino il comfort, però non si può dire che sia scomodo in assoluto, è comunque un'auto che va presa per sportiva, ecco. Molto bene, questa era la prova della Nissan GTR. Per maggiori informazioni e video naturalmente 4ruote.it oppure radio24.it. Da lunedì riascolterete tutto questo, comprese le schede. Grazie Alessandro Carcano e a prestissimo. Grazie a te e una buona serata a tutti. Quattro ruote e dintorni. Dicevamo dunque, Husqvarna, un marchio storico amato da tutti i fuoristradisti, torna alla grande, viene rilanciato diciamo anche imprenditorialmente e come numeri, perché il gruppo BMW, per chi se lo fosse perso, l'ha acquistato più di un anno fa. Ma la notizia non è questa, non sarebbe nuova. La notizia nuova è che 3 giorni fa è stato inaugurato il nuovo headquarter e ancora una volta in Italia, questo è importante, viene radunata tutta l'attività produttiva ancora prima di progettazione e poi insomma quando un prodotto unico viene prodotto nello stesso luogo si sa, questa è una legge di mercato, esce meglio dalle fabbriche. Cerchiamo di scoprire perché e con che coraggio Husqvarna fa tutto questo attraverso due persone che hanno lo stesso cognome, sebbene non siano parenti. Uno è Martino Bianchi di Husqvarna. Buonasera Martino. Buonasera a tutti. Che si occupa delle relazioni esterne non solo, anche con noi giornalisti di auto e di moto, e l'altro è Luigi Bianchi, che ben conoscete, il direttore di Due Ruote, ci fa compagnia una volta al mese. Ciao direttore. Buonasera a tutti. Dunque, inaugurato l'headquarter, Martino, dicevamo, lo vuoi presentare tu agli ascoltatori, facendoci capire anche l'estensione e l'importanza del finanziamento BMW? Beh sì, insomma una cosa importante, un'inaugurazione che è avvenuta lunedì scorso qui a Cassinetta di Brandronno, vicino a Varese, siamo sempre sul lago di Varese, più di 10 milioni di euro di investimento da parte di BMW, uno stabilimento di 5.800 metri quadrati che è venuto su in poco tempo, soltanto circa 15 mesi dalla posa della prima pietra, che è proprio avvenuto nel luglio dell'anno scorso. E il fatto importante è che, come dicevi tu, siamo riusciti a accorpare tutte le fasi produttive dello stabilimento. Inizialmente noi eravamo un po' separati perché la produzione motore era rimasta a Schiranna, dove c'è ancora la sede di Emilia Augusta, perché voi sapete che BMW ha acquistato la possibilità di produrre moto Husqvarna proprio dai fratelli Castiglioni, da Emilia Augusta. Sì. L'assemblaggio finale era invece a Cassinetta, il centro stile era un altro paesello, qua del Varesotto, quindi eravamo tutti un po' dislocati, decentrati. Ora invece siamo tutti riuniti sotto un unico stabilimento, veramente bello, moderno. Abbiamo la possibilità di arrivare anche a produrre 40.000 moto all'anno con 4 catene di produzione. Assemblaggio motori è anche quello con 2 catene di produzione che sfornano circa 81 motori per linea, l'R&D, ricerca e sviluppo, il centro stile, il marketing, il commerciale, tutti quanti riuniti per fare di Husqvarna la moto da fuoristrada per eccellenza, vorrei dire. Beh, non è poco. Luigi Bianchi, qui entri in azione tu. Qualcuno dice proiettati direttamente per andare a rompere le scatole agli austriaci, punti di riferimento, si tratta di KTM. Siamo nell'empirio del fuoristrada con Husqvarna, quindi. Beh, assolutamente sì. Quello che mi colpisce molto positivamente è che finalmente è stata fatta un'operazione di rilancio di un marchio così importante senza quei problemi di asfissia finanziaria che sono sempre stati un po' la maledizione dell'industria italiana. Questa volta con l'appoggio di un'azienda con le spalle molto larghe come BMW si è riusciti a partire col piede invece giusto, per cui con gli investimenti che servono, senza la necessità di vendere il prodotto subito immediatamente per rientrare delle spese. È stata un'operazione giocata su un periodo un po' più lungo e questo credo che poi sia la garanzia di poter raggiungere gli obiettivi ambiziosi ma assolutamente raggiungibili e legittimi che si sono dati. Certo, correre dietro KTM, che negli ultimi anni era andata un po' in fuga da sola, rientra in questi obiettivi, ma mi sembra assolutamente legittimo, insomma, mi sembra l'obiettivo minimo da avere in una situazione come questa e con un marchio come quello. Martino Bianchi, ci fai capire a quanto ammonta la produzione e la vendita, soprattutto ad oggi o a ieri, dello Husqvarna e che numeri volete raggiungere, almeno a spanne per capire di quanti appassionati stiamo parlando? Ma guarda, in questo momento parliamo di dati 2008, 15.000 moto prodotte e vendute, 2009 chiaramente c'è un po' di flessione, saremo sul 13.000 pezzi, però insomma siamo quelli che soffriamo anche meno, chiaramente è un mercato di nicchia, ma per dare alcuni dati, in Italia noi vogliamo cercare di ripetere il nostro obiettivo per il 2009, ripetere quell'andamento del 2008, quindi circa 2.850 moto per il mercato italiano. Ad oggi siamo a 2.000 moto vendute in Italia. L'obiettivo nei prossimi anni è quello di crescere, chiaramente, come ho detto, la capacità produttiva è di 40.000 moto. L'anno prossimo il target è quello di arrivare a 18.000 unità e contiamo di farlo perché abbiamo sicuramente delle belle novità che presenteremo al Salone di Milano. È chiaro. Tra l'altro, Luigi, hai visto, noi giornalisti siamo stati portati, scortati direi, all'interno della bellissima sede, posso confermarlo, di Cassinetta di Biandronno, e particolarmente interessante era il segreto che copriva tutti gli studi e i progetti di uno degli uffici più impenetrabili di ogni azienda, cioè l'ufficio progettazione, il futuro. C'erano diversi modelli coperti da teli, quanta tentazione avevi di tirarne su uno? Beh, guardare sotto i teli dei prototipi per me è una tentazione quasi irresistibile, però insomma non mi sembrava il caso per dovere di ospitalità di farlo. Certo che da Husqvarna mi aspetto grosse cose, anche perché nel tempo è sempre stata una casa molto innovativa, anche quando erano tempi più difficili di quelli che vive fortunatamente adesso. Per cui da loro non mi aspetto che vadano avanti su delle strade consuete, ma mi aspetto che inventino qualcosa. Peraltro BMW, che è un marchio molto paludato, nelle moto è sempre stato estremamente innovativo. Per cui è un mix da cui mi aspetto molto, e vediamo al Salone di Milano se mi fanno divertire come spero, insomma. Ma tu che ti occupi solo di moto e sei più introdotto di me, sei riuscito, lo chiedo a te perché a Martino gliel'ho già chiesto, mi ha fatto una smorfia a Cassinetta, ma sei riuscito ad avere qualche, diciamo, preludio, qualche prevista sul futuro? Diciamo che se anche lo sapessi non dovrei dirlo, però no, a parte le battute non ho particolari segreti, anticipazioni da svelare. So che stanno lavorando, ma lasciamoli in pace e vediamo cosa tirano fuori. Va bene, Martino, ci fai capire che tipo di relazione esiste, se esiste, con Motorrad, con tutto il reparto due ruote della BMW, perché a questo punto si può parlare di un unico gruppo, per cui ci potrebbero essere delle sinergie o no? Sì, beh, sicuramente sinergie ce ne sono. In questo momento stiamo sfruttando molto la parte commerciale, ci sono delle nuovi mercati che si possono aprire dove possiamo attingere alla rete BMW, questo diciamo che è il primo passo. Poi ti dico anche che l'R&D, quindi la parte di ricerca e sviluppo, sono costantemente in contatto, ci sono alcuni progetti che possiamo condividere. Luigi Bianchi, per quanto riguarda i fan in Italia invece del fuoristrada, ci fai capire come se la passano? C'è stata l'ondata di grande moda del fuoristrada, anche contornata da grandi campioni e tanti campionati vinti. C'è di nuovo un campione mondiale, se non sbaglio, Cairioli, con italiano, con un'altra moto. Però mi fa piacere sapere se andare fuoristrada oggi è di tendenza, non è di tendenza, se è facilitato dalla Guardia Forestale o se ci sono i pallettoni che scorrono dietro le scie delle moto. Che succede? È inusabile per problemi di traffico, di limiti di velocità, eccetera. Il fuoristrada, inteso in modo intelligente, non come quello che va e distrugge boschi, campi e cespugli, ma usato in modo corretto, in modo intelligente, è sicuramente un modo moderno, io credo, in sintonia coi tempi, di utilizzare la motocicletta per il fuoristrada, per un po' di viaggio avventure, per tante cose. In fin dei conti, se ci si pensa, negli anni 70 le moto da fuoristrada venivano usate addirittura in città, cioè davanti ai licei c'erano le famose moto da regolarità, che poi nessuno mettesse un tassello fuori dall'asfalto è un altro discorso, ma la tendenza era un po' quella. Ecco, io penso che oggi l'off-road sia una cosa in sintonia con l'evoluzione e con le condizioni della società di oggi. Sono d'accordo, ho fatto parte di quella schiera dal Fantic Motor in poi, te lo ricordi, qualcosa di veramente storico. Io un po' prima, ma va bene uguale. Chiudiamo con Martino Bianchi, un minuto. Martino, volevo chiederti che cosa succederà al Salone per quanto riguarda Husqvarna, hai qualche pillola per incuriosire e far venire qualche appassionato a Milano? Ma sì, sicuramente, tu sai che Husqvarna ha puntato molto su Supermotard, che è una fascia di mercato che abbiamo scoperto una decina di anni fa, dove siamo leader nel segmento anche dal punto di vista delle competizioni, perché ogni anno vinciamo un campionato del mondo, e proprio al Salone lanceremo qualche novità. Adesso non posso dire cosa, però sarà sicuramente una moto importante per noi, è una cilindrata di 600 centimetri cubici, mentre invece per quanto riguarda il segmento motocross enduro sono tutte novità che abbiamo già presentato un paio di mesi fa. Gli amanti del 6 e 10 sono avvisati. www.husqvarna, che vi ricordo si scrive con l'H davanti e poi SQV, quindi Husqvarna-motorcycles.com. Grazie Martino Bianchi, a presto. Grazie a voi. Grazie anche al direttore di Due Ruote, a prestissimo Luigi. Ci risentiamo, grazie a tutti, buona serata. Quattro ruote e dintorni. Ve l'avevo preannunciato prima, adesso ci occupiamo di una spedizione nobile, anche fini benefici, ma è una spedizione che si occupa di quei dintorni del nostro sito, del nostro titolo, Quattro Ruote e Dintorni. Infatti togliamo un motore alle moto e ci troviamo sulle biciclette, in biciclette in Madagascar. L'avventura è organizzata da un gruppo di facinorosi che hanno già realizzato diverse spedizioni e verrà fatta appunto in Madagascar. Abbiamo al telefono Francesco Molfino, uno dei partecipanti che domenica 18 ottobre partirà per questa spedizione che ha un nome interessante, Baikilili. Vero Francesco, buonasera e benvenuto. Buonasera a te, buonasera a tutti. Il nome Baikilili è corretto ed è semplicemente la traduzione in malgascio del nome della bicicletta. Che cosa succederà dal 18 ottobre esattamente fino al 12 novembre, quando e come? Così ci racconti anche la genesi di questa esperienza. Volentieri, il 18 di ottobre partono 10 mezzi matti di una certa età che fanno tutt'altro mestiere nella vita e che si cimentano una volta l'anno nel far sì di avere un challenge sportivo legato a uno scopo umanitario. Quest'anno la scelta è caduta su Madagascar, esattamente la parte nord-est del Madagascar, che verrà percorsa prevalentemente da noi 10 ragazzi in bicicletta. Si presumono 1620 km nell'arco di un 12 tappe, perciò un challenge di media difficoltà, medio-alta difficoltà, legata evidentemente all'aspetto sportivo e di scoperta dei luoghi. Certo, perché c'è l'ambiente, c'è l'atletica, c'è sicuramente il proprio fisico da tenere a bada per 12 tappe, sono tanti, 1600 km, e lo scopo umanitario, ci illumini? Lo scopo umanitario nasce per far sì di creare un collegamento diretto, quanto più diretto possibile, fra noi che viviamo in un paese cosiddetto sviluppato e loro che hanno serie necessità di capire come muoversi nei primi passi di organizzazione interna, legata semplicemente alla logistica, perciò agli spostamenti, ma anche all'igiene e semplicemente alla ricerca di un cibo che possa assicurargli una crescita normale. Perciò noi civili di indole ci interessano particolarmente i bambini, perché crediamo che siano il primo step poi da salvaguardare. Lo scopo umanitario nasce anche alla collaborazione del commissariato di Cortina d'Ampezzo, del comune di Cortina d'Ampezzo, il legame che lega Rapallo, dove io risiedo in provincia di Genova, a Cortina d'Ampezzo, che è un legame nato quest'anno ma che si svilupperà, vedrai, a breve con altre iniziative. Noi porteremo a lato pratico due container di merce nuova e reclutata nelle varie regioni dove noi ci siamo rivolti scopo benefico con le nostre richieste. Certo. E cercheremo di fare una distribuzione capillare, mi spiego meglio. Nella realtà noi pedaleremo, avremo due jeep di supporto, le due jeep di supporto con le due guide, nel mentre che noi tracceremo le nostre tappe con la bicicletta, andranno ad approvvigionarsi all'interno dei container e ci raggiungeranno nei villaggi dove noi ci fermeremo. Noi calcola che dormiremo con loro, perciò cercheremo per quanto possibile di integrarci nel minimo disturbo e nel massimo rispetto. Chiaro. E scaricheremo le jeep ogni tappa e ogni villaggio che ci ospiterà. Decisamente, perciò bello, bello. Finiremo con la merce, che generalmente sarà merce legata poi alla didattica di questi bambini, dove ci porteremo dietro delle lavagne. Poco materiale, diciamo, tecnico legato ai computer, perché purtroppo poi in realtà abbiamo visto che non hanno l'elettricità, di conseguenza sarebbe stato un controsenso. Vestiario, scarpine di plastica, vestitini con delle giacche a vento e via dicendo. È chiaro. Senti, noi parliamo spesso di mezzi a motore, qui siamo sui mezzi però di cui ogni tanto parliamo senza il motore, parliamo delle biciclette. Che biciclette sono, come le preparerete, che cosa vi porterete dietro per gli imprevisti che ci saranno? Guarda, ci siamo organizzati nel far sì di avere un meccanico all'interno dei 10 ragazzi. Non ci interessava un meccanico da jeep, ci interessava un meccanico che venisse con noi a pedalare, ma che ci fosse anche di supporto. Con lui e con la MIC Italia, che è stata nostro sponsor, che è la distributrice, scusami, di Shimano per l'Italia, non solo, abbiamo approntato una bicicletta che potesse avere delle caratteristiche sostanzialmente di robustezza, perché non vogliamo far sì che nell'arco di questo mese poi sorgano dei problemi tecnici non riparabili. Certo, certo. No, abbiamo organizzato una mountain bike front, così si chiama quella mono ammortizzata solo sul frontale, in alluminio con tutti i pezzi in carbonio, con dei pezzi nuovi legati allo sviluppo futuro della MIC, perciò abbiamo del carbonio in stampa, perciò estremamente leggero. Abbiamo una sorta di ABS, fra virgolette, collegato ai freni, che fanno sì che si sviluppi un concetto automobilistico anche sulla bicicletta, perciò di non stop della gomma indesiderato e nelle frenate peggiori. I copertoni sono stati organizzati in realtà per il fango e lo sterrato. Dei 1600 km noi non troveremo un pezzo asfaltato, non abbiamo a livello altometrico dei grossi dislivelli, la distanza sarà il challenge, ma soprattutto il challenge legato alle condizioni atmosferiche. Chiaro, molto bene. Questo avverrà dal 18-10 al 12-11 Baikilili in Madagascar. Intanto complimenti, ti faccio citare per bene il sito su cui avere maggiori informazioni e su cui seguirvi. Volentieri, noi saremo in collegamento diretto con il sito e con un telefono satellitare. Il sito è Adventures Cortina, con la S alla fine di Adventure. .it, molto bene, adventurescortina.it per chi Perfetto. Non conoscesse l'inglese. Grazie di cuore a Francesco Molfino, in bocca al lupo per questa bella iniziativa. Grazie a te Roberto, a presto. Spesso parliamo di accessori per l'auto, accessori più o meno utili, e ha attirato la nostra attenzione adesso Pocket Pass, un accessorio che sembra molto utile da usare nell'abitacolo, soprattutto per coloro che utilizzano più di un telepass, e ho scoperto ce ne sono diversi. Chiediamo tutto ad Anna Maria Norero, che è l'ideatrice responsabile di AM Project, che è un po' la mamma di questo progetto che si chiama Pocket Pass. Buona serata signora Norero. Buonasera a tutti. Vuole raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è Pocket Pass esattamente? Allora, Pocket Pass è un'idea che appunto abbiamo visto per necessità personale, tra l'altro, perché quando si passava i caselli avendo due telepass per l'ufficio e quello personale, delle volte se non lo nascondevamo bene uno dei due suonava. Sì. Quindi abbiamo creato questa custodia, che l'abbiamo anche brevettata, ma è utilizzando poi il sistema, la gabbia di Faraday, no? Applicandola, ed è stata creata questa custodia per poter garantire il totale isolamento degli apparecchi accenati appunto con le onde elettromagnetiche. Beh, sembra facile da dire, in realtà è anche facile da fare, perché è una vera e propria custodia, contiene giusto il telepass, e quindi una volta chiusa la custodia voi garantite che passando sotto la porta telepass non suona, quindi non viene poi addebitato eventuale doppio pedaggio. Sì, assolutamente, è una custodia che è tecnicamente perfetta. Tra l'altro l'abbiamo fatta cioè anche illimitata nel tempo, quindi se tu la tratti bene non devi comprarne certo. più di una. È chiaro, è chiaro. Allora manca sapere quanto costa e dove si trova. Allora costa 10 euro più IVA, e poi la troviamo per adesso ancora nel sito www.dmail.it, poi nel www.pocketpass.it, poi un altro sito online www.sixstar.it, e poi in alcuni distributori di servizio nell'autostrada Tamoil di Sessi Levante, Sant'Ilaria Genova, poi alcuni distributori dell'Agip. Insomma, in giro per i distributori, che sono uno di quei punti più intelligenti dove piazzare queste piccole ma importanti cose per l'abitacolo. Grazie davvero ad Anna Maria Norero per Pocket Pass, a presto e buona serata. Grazie a voi. Adesso ci occupiamo di un argomento davvero particolare, di cui parliamo troppo poco, cioè di bambini, naturalmente di bambini all'interno dell'abitacolo. Ci sono dei pericoli evidenti che troppo spesso vengono sottovalutati. Se ne è occupato il mensile Quattro Ruote in un'inchiesta del mese di agosto, ma è pur sempre attuale. Ce la racconta Emilio Brambilla. Buonasera Emilio. Buonasera a tutti. Senti Emilio, racconti ai nostri ascoltatori intanto l'esigenza da cui è nata questa inchiesta. Nasce dalla considerazione che le automobili diventano e sono diventate sempre più sicure per gli adulti. 10 airbag, carrozzerie sempre più robuste, così. Mentre per i bambini la situazione è migliorata in proporzione molto meno, un po' perché non ci sono stati progressi altrettanto evidenti per i seggiolini, un po' perché purtroppo tanti adulti, tanti genitori dimenticano ancora di utilizzare questi seggiolini, di allacciare i bambini negli appositi dispositivi, magari pensando che nei brevi tragitti e andando piano in città i rischi che corrono i piccoli non sono elevati, invece è proprio in queste situazioni che rischiano di più, un po' anche perché si sta assistendo al fenomeno della diffusione delle macchine, delle city car, che offrono dei posti sul divano posteriore che sono veramente appiccicati al portellone, quindi il rischio in caso di tamponamento è elevato. E tra l'altro questo rischio, oltre che nelle city car, è presente anche nei sempre più numerosi modelli di classe media con 7 posti, quindi con 3 file di sedili. Dove per forza gli ultimi sono molto attaccati, tu dici ai lunotti posteriori piuttosto che ai montanti posteriori. Esattamente, pur essendo i tamponamenti violenti un tipo di incidente per fortuna abbastanza raro, in questi casi si rischia molto e si rischierà sempre di più perché l'industria dell'automobile va verso l'auto più compatta, più piccola, proprio per consumare di meno, la questione della CO2 e i discorsi noti. Decisamente. Che cosa avete scoperto in questo? Perché dobbiamo fare i conti anche con una normativa. Voi ritenete che ci siano dei buchi normativi in questo? Bisognerebbe tutelare meglio i bambini nell'abitacolo? In generale, diciamo, adesso che si è parlato molto di Stati Uniti per via dell'accordo tra Fiat e Chrysler, questo sottolinea il fatto che negli Stati Uniti, per esempio, un'automobile deve essere sottoposta a 19 crash test prima di poter essere venduta e in Europa sono soltanto 2 quelli obbligatori. Tra l'altro dei 19 crash test negli Stati Uniti ce n'è uno proprio per gli urti posteriori molto violenti che in Europa non esiste. O se esiste una cosa molto vecchia, basti dire che l'urto posteriore europeo avviene a 38 km all'ora e quello americano a 80 all'ora con un veicolo che tampona che è molto più pesante di quello europeo. E quindi è arrivato il momento anche per mettere ordine sotto questo punto certo. di vista. Anche da noi. Certo. Senti, chiudiamo con i consigli che si possono dare nel caso avessimo uno o più bambini, come sistemarli al meglio? Prima di tutto bisogna vincere la pigrizia o la resistenza dei bambini e pensare che anche un trasferimento di 2 chilometri in città per andare all'asilo nido, a scuola o al supermercato può nascondere delle insidie veramente gravi. Tra l'altro sistemare il bambino in braccio sul posto anteriore è diventato pericolosissimo da quando ci sono gli airbag anteriori e tra l'altro bisogna ricordarsi che in un urto a 50 all'ora, quindi un urto che infatti. Può succedere in città, è assolutamente impossibile trattenere un bambino con le braccia, perché un bambino di 15 kg è come se pesasse 300 kg, quindi neppure un sollevatore di pesi olimpionico riuscirebbe a trattenerlo. Questo è cos'è un dato che serve, un po' provocatorio, ma verissimo, e che serve per dar conto di quello che è una leggenda metropolitana, cioè tengo mio figlio fra le braccia, sicuramente è più al sicuro rispetto al posto dietro, infatti, piuttosto che una cintura. E anche dietro bisogna allacciarlo, perché altrimenti il bambino in caso d'urto volava e si fa male. Allo stesso modo vanno fissati bene i bagagli, soprattutto quelli pesanti, i tipici bagagli delle vacanze o le biciclette smontate, così diventano dei veri e propri proiettili. Che colpiscono anche i posti anteriori, attenzione, colpiscono, perché basta una gomitata in faccia. Certo. Insomma. Va bene, questo è il modo migliore per tutelarci e tutelare soprattutto i più piccoli, che hanno tutto il diritto di viaggiare sicuri insieme a noi. Non mettiamo a repentaglio la loro sicurezza, questo va detto. Grazie davvero a Emilio Brambilla di Quattro Ruote per questa inchiesta e a presto. Grazie a te, buonasera a tutti. Con la sua voce termina anche la nostra puntata, che torna puntuale sabato ore 21 qui su Radio 24. Valeria è rimasta in regia con noi, Roberto Rasia al microfono, vi augura soprattutto una buona guida.